per la macchia ben nota qui ne venni. E ancora poco il togno ti battevi. Oh, togno lo scemo. Lo scemo è da te voi. Quest'ansia in eterno